Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In quegli stessi giorni, il lunedì dopo, iniziai lo studio della chitarra classica. Il maestro somigliava a uno dei lupi della villa comunale, con quella barba lunga, folta e nera. Il suo sguardo era penetrante e un po' mi spaventava. Non rideva mai. Si chiamava Oronzo Persano. Sono Maurizio, ho 40 anni e vivo a Lecce. Sono sposato e sono un imprenditore. Proviamo a fare un piccolo esperimento, un esperimento che dura un 30 secondi. Cercate di ricordare adesso, in questo preciso momento, un giorno, non un attimo, non due ore, non 5 secondi, ma proprio un giorno intero, 24 ore. Un giorno della vostra vita che vorreste tornare a vivere di nuovo, tale quale, con la stessa età, con le stesse condizioni dell'epoca, con le stesse persone che avevate intorno, anche la stessa temperatura dell'aria. Il giorno che vi piacerebbe rivivere. Ivan ce l'ha molto chiaro e me lo scrive sul profilo Facebook del programma, che Voi siete qui Radio 24. Io rivivrei volentieri un sabato della primavera, novembre in Argentina, del 95. Con papà ci svegliamo presto, andiamo dal macellaio e dal fruttivendolo, torniamo a casa e nel pomeriggio Museo di Storia Naturale di Buenos Aires. Lo conoscevo a memoria, ma con mio papà era sempre diverso e sempre ugualmente bello. Una felicità vera, padre e figlio. Usciamo, andiamo in piazza a giocare. Io gioco, lui mi guarda e fa delle foto. Foto che ora, a 17 anni di distanza, stringo ancora con amore. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook, dove trovate anche i messaggi che leggo. Se invece volete scriverne e caricarne voi, è Voi siete qui Radio 24. Se non avete Facebook ma siete davanti a un computer, c'è l'indirizzo del programma, che è Voi siete qui @radio24.it. L'indirizzo è anche il luogo in cui, l'indirizzo del programma intendo, l'indirizzo mail, è il luogo in cui potete continuare a mandare storie che continuano imperturbabili ad arrivare. Arriva una media di 2-3 al giorno, credo. Ripeto, una storia che sia un racconto che racconta qualcosa di voi. Una pagina, possibilmente. Facciamo magari anche una pagina e mezzo, non di più, perché poi il problema è veramente leggerle tutte e soprattutto infilarle in una puntata, non ci sta. Noi ci costruiamo una storia intorno, ci costruiamo una puntata vera e propria e ogni giorno facciamo questo programma che racconta un pochettino di questa grande mappa che è caratterizzata da tutti i puntini, da tutte le vostre storie. 349-238-6666, oggi parliamo di quel giorno che vorreste rivivere, proprio precisamente, tale e quale. Susanna scrive: il giorno che vorrei rivivere è il 26 di aprile del 1975. Avevo 19 anni, ma le sensazioni di quel giorno non le ho mai più riprovate. Il colpo di fulmine per eccellenza, il gioco di evitabilissimi scontri, la fortuna di essere seduti vicini, un interminabile pranzo di matrimonio a cui mai avrei voluto partecipare, volato in un attimo, di cui avrei voluto la replica. 349-238-6666. Tutto nasce dal racconto di Maurizio, che parla di un incontro che lo porta indietro nel tempo, al giorno che praticamente ha rivissuto. Nel 1977 l'Italia viveva le stragi del terrorismo, gli anni di piombo, ma io ero un bimbo e queste cose non le capivo. Il Lecce era tornato in Serie B l'anno prima e la città era bellissima. C'erano gli animali nella villa comunale, i cigni nelle vasche, i lupi nelle gabbie, che giravano e rigiravano nei pochi metri quadrati a disposizione, come dei dannati in qualche strano girone dantesco. E a Lecce c'era sempre il sole. I miei genitori erano giovani e belli, i nonni erano vivi. In quel settembre, il 19 per l'esattezza, iniziai la scuola elementare. Ricordo come se fosse ieri quell'aula luminosa, grande, la maestra sorridente e i compagni un po' spauriti. Fui assegnato al penultimo banco. La maestra scrisse il mio nome su una striscia di carta bianca, con calligrafia elegante, quasi antica, e la incollò sul mio banco col nastro adesivo trasparente. Il mio nome era bello da vedere scritto così, e quella S di Saquegno, fatta in maniera artistica, mi faceva sentire importante. Negli stessi giorni, il lunedì dopo, iniziai lo studio della chitarra classica. I miei genitori si sono resi conto molto presto che io ero portato per la musica, perché suonavo le pentole in casa e qualsiasi cosa mi capitasse, anche uno strumento, un pianoforte, facevo delle melodie. per cui mio padre ha deciso appunto a 6 anni di propormi di iniziare a suonare la chitarra e così è stato. Avevo dimostrato propensione e passione per la musica già da piccolissimo e mio padre decise quell'anno di iscrivermi a un corso sperimentale di musica per bambini. Ci andai con entusiasmo. Conoscevo già una dei miei futuri compagni, Barbara Madonna si chiamava. E là conobbi gli altri, Stefano Caiuolo, Cecilia Persano ed un altro di cui al momento mi sfugge il nome. Tutti coetanei, tutti bambini. Il maestro era il padre di Cecilia. Somigliava a uno dei lupi della villa comunale, con quella barba folta, lunga, nera. Il suo sguardo era penetrante, un po' mi spaventava. Non rideva mai. La sua scuola l'aveva intitolata a Mauro Giuliani, chitarrista di cui era grande estimatore, ed era situata nella dépendance di una villetta in via del mare. Era un ambiente buio, con delle tende nere sul retro del palchetto su cui eseguivamo i brani studiati ad ogni lezione, e poche finestre, soprattutto alte e strette. C'era un pianoforte nero, antico, con i portacandele incorporati nella parte davanti, sopra la tastiera, e delle candele rosse consumate per metà che ci avevano scolato sopra la cera sciolta. Un odore di dopobarba economico, misto all'odore di sigaretta, mi trafisse violentemente. Non lo sapevo ancora, ma quell'odore mi avrebbe accompagnato per i 10 anni a venire. La mia infanzia felice e spensierata, in qualche maniera, finì bruscamente in quel periodo. Il mio maestro si chiamava Oronzo Persano. Era uno per cui la musica era una cosa seria. Per i primi 2 mesi si fece solo teoria e non toccammo mai la chitarra. La mia era lì, nella cameretta, nuova fiammante, e non sapevo usarla. Lui ci spiegava la musica, ci raccontava come vedeva le note, di come esse avessero un nome e un cognome, della differenza tra loro per tonalità, per ottava, per lunghezza e dinamica. Ci parlava di diesis, di bemolle, di toni e semitoni, di crome e biscrome. Ci raccontava del solfeggio, della matematica che è nella musica e dell'immensa emozione che si prova a suonare, a sentire tutte le note insieme negli accordi in armonia, della magia dei duetti o dei brividi di un coro. Ci ha fatto suonare le percussioni per imparare a seguire il tempo, a portare il ritmo, come dicevo con il suo accento spiccatamente leccese, seguendo il metronomo, quel maledetto metronomo che scandiva impietoso il passare degli anni. I nostri giorni più belli. Ci disse che il silenzio non esiste e tutte queste cose ce le fece scrivere per non dimenticarle. Tutti i maestri sono importanti nella vita di una persona. Lui aveva un carattere particolarmente duro e quindi un bambino scontrarsi con un carattere così duro a 6 anni insomma è stato anche abbastanza traumatico, fermo restando che i ricordi poi rimangono quelli anche positivi. Oggi, 25 anni dopo, vedendo un uomo anziano entrare nella posta, ho improvvisamente ricordato tutto questo. Ho ricordato quei mercoledì e sabato a lezione. Oggi ho rincontrato i suoi occhi profondi, lo sguardo severo. Non mi ha sorriso, ma non me l'aspettavo. Mi ha riconosciuto subito. Parlava piano e dovevo avvicinarmi a lui per sentire quello che diceva. Ma non troppo, per il timore reverenziale che si ha quando si è a fianco ad una persona speciale. Oggi ho amato financo il suo odore, sempre lo stesso. Gli ho raccontato di me, della mia carriera di musicista, dei miei successi, delle delusioni, delle mie aspirazioni. Mi ha raccontato di sé, come se ne sentisse l'esigenza. E io l'ho ascoltato muto, come quando ero bambino, e ogni sua parola per me era pesante come un macigno, e importante, imperdibile. Gli si è illuminato lo sguardo quando gli ho detto che lo seguo ancora, e che adoro il suo studio sulle pause, su quel silenzio che non esiste, ma che è importante, tanto quanto le note. Tutti noi abbiamo una persona molto importante che è passata nella nostra vita. cioè in generale se ne ha più di una, però capita di incontrare magari anche per brevi periodi una persona che diventa molto significativa per noi. I più fortunati come Maurizio hanno avuto un vero e proprio maestro, qualcuno che è stato un esempio e un insegnante. Per altri invece la vita ha offerto figure di riferimento come genitori, parenti, nonni, zii, amici. Di solito si tratta di persone più grandi di noi, con un carisma particolare, una specie di luce che ce li indica in mezzo a tutti gli altri e ce li fa seguire. Il maestro di musica di Maurizio è stato proprio questo per lui. Più tardi chiederò direttamente a lui com'è andata, ma leggendo la sua storia io mi sono immaginato che il loro rapporto sia stato intenso e costante in quei 10 anni di mercoledì e sabati di lezione. Mi sono immaginato che Maurizio a 15 anni abbia smesso di frequentare quei corsi, ma non di suonare la chitarra. Poi ha studiato, ha lavorato, ha conosciuto persone diverse con cui ha creato e magari disfatto delle cose, ma in un angolo della sua testa il maestro Persano ha sempre occupato uno spazio importante, e non solo per quanto riguardava la musica. Maurizio ora ha 40 anni, o meglio, ce li ha avuti fino a qualche mese fa, quando in coda per pagare una bolletta, alla posta, ha incontrato di nuovo il suo maestro. E per un attimo è tornato ad averne 15. Risentire il suo profumo, la sua voce, rivedere quel viso, lo ha sì fatto tornare indietro con i ricordi, ma per un attimo lo ha proprio reso il bambino che era quando andava a lezione da lui. È tornata la stima per quell'uomo, ma anche il timore reverenziale. E le cose che gli ha raccontato di sé le ha raccontate come un ragazzino che quasi chiede conferma al maestro di avere fatto bene. Ecco, questa storia mi ha fatto pensare proprio a questo, al fatto che quando incontriamo le persone che sono state importanti per noi, loro sono come la misura del punto in cui noi ci troviamo. Se non vediamo da tanto un nostro insegnante, un ex fidanzato, ma anche un vecchio amico, nel momento in cui lo incontriamo, gli anni che sono passati dall'ultimo incontro vengono annullati. E noi, anche se per pochi istanti, torniamo ad essere quel noi là. Quel noi di quando l'avevamo lasciato l'ultima volta. È una cosa che dura un attimo, perché poi riprendiamo coscienza che sono passati anni e cose da allora. Eppure guardando quella faccia o risentendo quel profumo, ci sembra di misurare attraverso di lui il tempo che è trascorso su di noi. Penso che questa cosa sia così vera che, ad esempio, quando pensiamo alle persone che non ci sono più, ma che hanno avuto un ruolo importante nella nostra vita, e ci pensiamo veramente, con precisione, in ogni dettaglio, noi non riusciamo ad avere l'età che abbiamo, ma per un attimo assumiamo quella che avevamo all'epoca. Cosa che non accade invece con le persone che sono nella nostra vita sempre, da sempre, e che frequentiamo, anche saltuariamente. Ecco, faccio un esempio che per me è molto chiaro, per cercare di spiegare il concetto. Ecco, mio nonno è mancato nel 1985, un giorno di agosto che noi eravamo in vacanza. Io avevo 10 anni e lui 65. Mia nonna invece è viva, sta bene e ha 91 anni. Ecco, quando io penso a mia nonna, ovviamente mi vengono in mente anche ricordi di quando ero bambino, ma la prima cosa che penso sono le cose che mi ha detto ieri al telefono, come stava, che voce aveva, o l'immagine del suo viso la scorsa domenica pomeriggio quando l'ho vista. Insomma, penso a lei da uomo di 37 anni. Quando invece penso a mio nonno e ricordo le cose di lui, che un po' già svaniscono nella memoria, ecco, io non ho 37 anni, ne ho 6, 8, al massimo 10. Non ricordo cosa ci siamo detti l'ultima volta che l'ho vista, che l'ho visto prima che partissimo per le vacanze, ma ricordo quando rideva o quando beveva il suo bicchiere di vino a pranzo, uno, non di più, perché era cardiopatico. E ricordo di quando mi portava con il ciao in giro per le campagne del paese e mi faceva guidare stando in piedi sui pedali. Ma la cosa che più mi rimane addosso di questi ricordi è il modo in cui ci penso. È l'età che ho quando ci penso. Non riesco ad avere 37 anni quando penso a mio nonno. Ne ho e ne avrò sempre 10. Perché le persone che hanno significato molto per noi, che ci siano ancora o non ci siano più, sono la misura di chi siamo diventati. Why am I not strong? Like the wheel that keeps travelers traveling on. Like the wheel that will take you home. Se c'è qualcuno che capisce questo messaggio che mi è arrivato, che è divertente, posso capire l'intenzione, ma non capisco esattamente il termine. Ciao Matteo, la tua malinconia mi sta mandando in busa. Cos'è la busa? Cosa significa? 349-238-6666. Quando si parla di provare a rivivere un giorno della propria vita, diciamo, i casi sono due. Si parla di amore, oppure si parla di infanzia. Tre, o persone che non ci sono più. Vi faccio un esempio. Sestri Levante, 19 agosto 1984. Conosco Elena di Milano in spiaggia il pomeriggio. Appuntamento subito per la sera, come ci fossimo conosciuti da sempre. Una serata unica e magica, tra romanticismo e sensualità, come ci fossimo conosciuti da sempre. E due, al punto che non ci siamo nemmeno scambiati indirizzo e telefono, proprio come se il giorno dopo le nostre vite fossero obbligate a intrecciarsi di nuovo. Non ci siamo mai più rivisti. Vorrei tornare a quell'agosto. Mauro da Finale Emilia, Modena. 349-238-6666. E che Sestri Levante non è nemmeno così grande, no? Che se cerchi una ragazza il giorno dopo la trovi magari sulla spiaggia. Andiamo però a sentire direttamente Maurizio, che è la persona che in qualche modo ha rivissuto tutta un'epoca incontrando semplicemente una persona alla posta. Pronto Maurizio? Ciao, buon pomeriggio a tutti. Come stai? Benissimo. Senti, quando è che esattamente accadeva questo incontro con il maestro Persano? Non ricordo perfettamente quando fosse, credo fosse aprile, comunque la scorsa primavera. Ok, meno di un anno. Neanche un anno, sì. Era un giorno di pioggia, dicevi, perché... Era un giorno di pioggia, sì. Perché te lo ricordi? Perché, perché eri triste? Perché il professore entrò alla posta con questo cappuccio dal quale uscivano i capelli lunghi e bianchi, e mi colpì questo ometto che poi è piccoletto, insomma è abbastanza basso, e appena si è tolto il cappuccio ho riconosciuto che appunto era lui. Senti, lui lo sa che stiamo parlando di lui in questo momento? No, onestamente non credo, ho cercato di rintracciarlo qualche tempo fa, però è una persona che vive in maniera molto riservata, quindi è un po' difficile rintracciarlo. Lui insegna ancora musica, che tu sappia? Mi disse quel pomeriggio che ha ancora una cattedra di chitarra classica al Conservatorio di Lecce. Ah ok, perché giusto, tu sei di Lecce, giusto Maurizio, e quindi stiamo parlando di quello. Senti, visto che ti sei presentato come imprenditore, però il tuo racconto parla di musica, cosa fai adesso? Cosa è successo da allora ad oggi? Sono successe tantissime cose. Ho continuato sicuramente la mia carriera da musicista, anche in maniera professionale, perché per molti anni ho suonato in una band, ci chiamavamo Blood Invidia. Blood Invidia? Cioè, ma tutto sì. Attaccato? Tutto attaccato, sì. Okay. Abbiamo negli Cosa facevate, Maurizio? Che musica facevate? Ma noi facevamo indie pop. Diciamo così, abbiamo forse precorso un po' i tempi per quello che poi è stato tutta quella serie di musicisti che sono usciti dopo, musicisti e band. Tipo, fammi un esempio. Ma guarda, per esempio, mi ricordo Mao e la Rivoluzione, all'epoca facevano un po' il nostro genere, piuttosto che anche Morgan per alcune cose. Noi eravamo un po' beatlesiani. I Blue Vertigo, quella roba lì, però i Blue Vertigo erano più elettronici, ok. Sì. Voi più acustici, giusto? No, noi più beatlesiani nelle melodie, anche nelle chitarre, insomma queste cose qui, con qualche inserto di musica elettronica. Poi cosa è successo, Maurizio? Ma poi cosa è successo? Poi, non lo so, la vita mi ha portato a fare altro. Per un periodo addirittura ho venduto macchine Movimento Zero della Caterpillar con grandissima soddisfazione. Cioè, per non fare nomi, poi dicevo... No, scusami, adesso non Tranquillo. Poi, dopo aver venduto Ruspe? Ma guarda, poi ho aperto uno studio di registrazione... nel frattempo avevo fatto tantissime stagioni come animatore. E cosa fai adesso, Maurizio? In questo momento ho aperto un sushi bar a Lecce. Okay, un ristorante, quindi, un ristorante giapponese. Mi permetto di fare il nome, non tanto per la pubblicità. Vai, no, questo lo facciamo, certo. Ti giuro, guarda, non è per la pubblicità, no, quanto mai, per farti capire che l'ho chiamato Play, sì? Proprio per avere un senso di continuità con il resto della mia vita. Ok, senti, quante persone ci lavorano al tuo ristorante? Ho 6 impiegati. 6? Ah, ma quindi sì. È un ristorantone, come sta andando? È appena partito? 40 giorni fa, va benissimo, devo dire è molto meglio di quello che pensassi. Ma a Lecce, quanti ristoranti giapponesi ci sono a Lecce? Credo ce ne siano 3 oltre me. Ah ok, mi piace questo 3 oltre me, non siamo in 4, ci sono io e poi ce ne sono 3. Maurizio, devo salutarti ma ti ringrazio per il racconto, la chiacchiera e in bocca al lupo per Play, il tuo sushi bar. Grazie per tutto. Ciao, grazie ancora. Ciao, buona giornata. Il giorno che vorresti rivivere, inizio luglio dell'80, ultimo esame di facoltà di medicina. Giornata con un caldo giusto, sensazione di libertà e di meta raggiunta. Ho iniziato a leggere Il Signore degli Anelli. Rosetta. Ci ha mandato una foto che è chiaramente autoscatto, Maurizio, ci scommetto 10 euro, non troppo, 10 euro. È in automobile, non si capisce bene dove sia perché è tutto chiaro, è tutto bruciato. Lui ha una faccia che non è proprio raccomandabile, guardarlo da sta foto, ha degli occhiali da sole, non si vedono gli occhi ed è quasi minaccioso. Rivivere. Verbo, tornare in vita. Tornare a vivere idealmente, mantenendo oltre la morte la propria presenza affettiva o la propria influenza spirituale. Riacquistare vitalità e importanza, rifiorire. Nell'Ottocento rivive il mito di Dante. Ripetere un'esperienza. Spero di non rivivere momenti simili. Dal latino revivere, data prima del 1313. La precisione di Mario è sempre... cioè, di fronte a uno che dice le cose così, io davvero alzo le mani. Grazie a Mario per il dizionario di Voi Siete Qui che stiamo componendo tutti i giorni. Scegliamo la parola che identifica la storia del giorno. A proposito di giornate da rivivere, notte di San Silvestro del nuovo millennio, 31 dicembre 99, il mio unico capodanno passato da solo. A Bilbao ci vivevo e lavoravo. 37 anni adesso, immagino. Famiglia e due figli in Italia. Insomma, c'è della malinconia in questo messaggio. C'è una piccola sorpresa in chiusura, quindi prima di arrivarci voglio leggervi un pezzo che ha proprio a che fare con rivivere momenti dell'infanzia. In questo caso si tratta di un sogno, è un racconto meraviglioso di Gianni Celati, che è tratto da una raccolta di racconti che si chiama Un eroe moderno, per i bibliofili edizioni Quodlibet. È proprio la storia di come in sogno lui rivive un momento preciso, un giorno preciso della sua carriera scolastica. Adesso, nel sogno della classe scolastica, capisco che siamo qui nei banchi per fare un compito di latino. Dobbiamo scrivere un commento a una frase di Orazio: Dum loquimur fugit invida etas. Vedo certuni che si grattano la testa con la penna, non sanno cosa scrivere. Compreso quello anziano, con il naso che gli cola. Invece in prima fila la compagna Veratti sta già scrivendo a tutto spiano. E scrive questo commento che leggo sul suo foglio. Tempo su umane vite, brevior fugit, quam rose primo vere olentis effluvium. È proprio la Veratti. La riconosco in pieno. Rimasta tale e quale, come quando era una ragazzona che mi faceva dei sorrisi smaglianti di buona educazione. E io sognavo di darle dei baci e la accompagnavo a casa parlandole di arte moderna per darmi delle arie. Poi di sera andava a pascolare nel suo quartiere in cerca di incontri notturni che non ho mai avuto e tantomeno con la Veratti, che di sera non usciva mai. Però la cercavo lo stesso, con l'idea che potesse aprirmi una persiana e invitarmi a salire su per la grondaia. Ora mi torna in mente tutto e ho proprio la sensazione di quelle sere d'estate quando andavo per strade buie in cerca di incontri emozionanti. L'aria è tiepida. Dalla finestra viene dentro una brezza. Le voci del cinema all'aperto si fanno più chiassose. Deve essere un film di gangster. Si sentono degli spari. Pam, pam! Il compagno Graziosi si alza a protestare con tutta la rotondità del suo ventrame, perché il chiasso gangsteristico disturba la composizione del suo tema di latino. Parla bene lui il latino. Si vede proprio che è un pezzo grosso e sa farsi valere. Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Quest'estate io ho ricevuto dei messaggi, anche quando non ero in onda, soprattutto quando non ero in onda, sul profilo Facebook del programma o sulla mail, di gente che mi diceva: ma scusami, ma hai finito il programma e ne stai facendo un altro? Perché c'è qualcuno che ha esattamente la tua stessa voce. Ormai da 4 giorni stanno bombardando in modo indiscriminato, anche con frequenze di 15 bombe al minuto sulle case. Approfondimenti, analisi, reportage, storie. Zaino e microfono, scarponi e registratore. Nessun luogo lontano tiene fede alla sua missione. Va sul campo a caccia di storie e torna in studio per raccontarvele. Η μεταναστευτική πίεση υπάρχει και μάλιστα αυξανόμενη. This is something that Australians wanted to see action on. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto ogni sabato alle 19:15 su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. Giampaolo, confermi che anche a te arrivavano i messaggi in onda della gente che ti diceva: Matteo, non scherzare, di cosa parli? Intanto buongiorno. No, è verissimo. Buongiorno Giampaolo Musumeci. E iniziavo la diretta e uno dei primi sms era: non farmi ridere, non sei Musumeci, tu sei Caccia. E poi si ricredevano evidentemente perché... Ma io l'ho capito comunque, questa cosa qua che facciamo uguale perché pensiamo. Però c'è gente che pensa, c'è gente che pensa senza farlo. Allora, Giampaolo Musumeci, se l'avete già sentito quest'estate, ma anche negli anni passati, da quant'è che sei in onda Radio 24? Col programma ho fatto 3 estati e poi collaboro con la radio da un po', con i reportage, col GR. Uno lo vede Giampaolo e già sembra una persona normale, no? Una persona tranquilla che arriva spesso in moto, in radio, con un casco. E poi quando fai 4 chiacchiere con lui ti dice: ma dove hai passato l'ultimo autunno della tua vita? Ma guarda, ero in Congo, perché sai che in Congo ci sono state le elezioni, no? E tu non puoi fare altro che dire: ma certo, come è ovvio che in Congo c'erano le elezioni nel 2011. Novembre 2011. E quando gli ho chiesto: ma tu Giampaolo cosa sei? Un inviato di guerra, perché mi piaceva il nome inviato di guerra. Detto, no, lì ho frantumato il mio sogno, l'epica che ti hai fatto su di me. No, non sono un inviato di guerra, faccio il giornalista, il fotografo, raccolgo storie, e se poi capita che le storie che mi interessano sono in una zona di guerra, vado in una zona di guerra. Ecco, però non sono gli ammalati di adrenalina. Benissimo. No, però io nella mia mente malata, ormai quando penso a un giornalista, me lo immagino alla tastiera che scrive il suo blog, giusto? Sì. E quindi c'è anche quello. E c'è anche quello. Cioè, forse soprattutto quello. Sì. Quindi quando sento che racconti, che so io, dimmi gli ultimi posti in cui sei stato, Giampaolo, che godo tantissimo. Allora, vabbè, a novembre appunto le elezioni in Congo, un mese a Kinshasa. Poi certo, ho fatto 2-3 capatine al Cairo. Sì. E... ci sono pizzerie a Kinshasa, ad esempio, per capire, cioè cosa fai a Kinshasa la sera? No, certo, sono pizzerie, ci sono discoteche, c'è una vita Giampaolo mondana dirà, notevolissima. È una bellissima città Kinshasa. No, non è bellissima, non è esattamente una bella città come ai noi spesso le città africane, le megalopoli africane, però c'è una vita sociale, sono bar graziosissimi. Poi Congo, poi Cairo, poi Calais in Francia e prima Evros al confine Turchia-Grecia per un lavoro sull'immigrazione. Domani cominciamo, faccio parte del programma. Sabato comincia la versione, diciamo, autunno-inverno. Sì, il magazine settimanale, diciamo, abbiamo cambiato vestito. 19:15 ogni sabato. Ogni sabato per 45 minuti. Esattamente. Che cosa, domani di cosa parliamo? Beh, domani non possiamo prescindere da quello che sta accadendo Libia, Egitto e non solo, però sarà un po' l'occasione, era l'11 settembre questa settimana, per fare un po' un bilancio di 11 anni di guerra al terrorismo, quindi capirne un po' di più. Giampaolo, grazie mille, con grazie te ci sentiamo voi. Domani alle 19:15, noi invece ci sentiamo lunedì alle 16, la storia di oggi era di Maurizio e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Ludovico, sono l'autore della storia che sentirete lunedì prossimo e ho scritto per raccontare la biografia di un orsetto che a me è molto caro. Ciao a tutti e a lunedì.